Il gastronauta, l'Italia del cibo, di Davide Paolini. Buona domenica e buon pranzo dal gastronauta. Bene, avete sentito che stiamo trasmettendo da una showroom in via Pontaccio, in previsione appunto i prossimi giorni Milano sarà invasa da eventi che riguardano il mobile e i connessi al mobile. Di conseguenza eccoci qua. Non parleremo di cappe, ma parleremo sicuramente di cucina, parleremo di nuove tecnologie in cucina, parleremo anche di microonde e poi sentiremo cosa ne pensa il maestro qui vicino a me, Gualtiero Marchesi. Comunque chi volesse intervenire poi da casa, 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Caro Gualtiero, hai mai cucinato col microonde? No. Sai che c'è un... Io sono rimasto alle cucine a carbone. Ah, sì, sei ancora. Poi adesso, siccome non cucino più, non chiedetemi cose di questo genere. Ah no, non ti chiediamo. Però ti posso chiedere della cucina del passato, questa sì. Ah, bellissima. Ma devo dire che un tuo collega stellato, che si chiama Stefano Mendasti, ha scritto un libro appunto sulla cucina del microonde, pensa un po'. Quindi vuol dire che c'è qualcuno che lo usa e come. Ma ora ci colleghiamo con un altro collega, anche lui tre stelle, con Chico Cerea da Brusoporto in provincia di Bergamo. Ma Chico, oltre ad essere un grandissimo chef, è anche un grandissimo, diciamo, catering. Delle volte mette a tavola 1000 persone, forse più. Buongiorno Chico. Non c'è, è caduta, ebbene, allora continuiamo, parleremo anche di spazi, come stanno cambiando gli spazi appunto in cucina, sentiremo anche qualche famoso architetto che ci spiegherà appunto cosa sta succedendo nella progettazione. Ma ti volevo chiedere, tu credi nella tecnologia in cucina? Io penso di sì, perché no? Ma la tecnologia, bisogna vedere che cosa intendi per tecnologia. Bisogna sapere intanto cosa fare, e credo che sia la cosa più importante, è affrontare il calore e sapendo che cosa fare. Uno dice, ma io metto la sonda e mi dice, so che devo cuocere, non so, a 50 gradi. Dico, ma se tolgo la sonda, come fa? Io sono abituato a toccare e sento quando, oppure a orecchio, diciamo a occhio. Sono cresciuto così, perciò direi che sono capace di cucinare. Ah sì, capace di cucinare? Insomma, adesso magari non più, insomma, perché sono fuori esercizio. Ma no? So che hai rivisto qualcosa come 150 piatti della cucina tradizionale italiana e li hai rivisitati tutti? 3.000. Ah, 3.000 addirittura? Beh, erano 3.000 e io li ho ridotti a 1.500, mi sembrava inutile che fossero 3.000 perché tutti si assomigliavano, così ho cercato di... Infatti dovrebbe uscire, non so se è uscito, con la Di Agostini. Mi sono ispirato a quello che per me era il miglior libro di cucina, che è quello delle Gosetti, e io ho fatto anch'io un peccato di questo genere, ma dopo mi sono riveduto. Infatti adesso esco con questo libro perché credo che sia necessario ridurre un pochettino, perché tante si assomigliano. Ma quello che credo che sia è rispettare il microclima, perché per me la cucina è solo microclimatica, in funzione di dove ci si trova. Intanto si assumono dei profumi, dei sapori diversi, perché il microclima ci condiziona molto. Infatti io dico sempre che noi abbiamo una cucina fusion, perché se partiamo dalla Sicilia, l'Alto Adige e via di seguito, vediamo come la cucina cambia, perché cambiano i prodotti, cambia la sensazione che si ha. Perché l'importante è saper cucinare. Ma sai che c'è stato un sociologo francese che ha scritto Fusion is Confusion. Quindi bisogna stare un po' attenti. Ma torniamo, abbiamo ripescato Chico Cerea. Buongiorno Chico. E ciao a tutti, buongiorno Davide, ciao Gualtiero, ciao a tutti gli ascoltatori. Ciao. Enrico e Chico, ti volevo chiedere questo: tu cucini al tuo ristorante per un centinaio di persone, ma cucini anche per 1000 persone. Ma la tua cucina, quando fai questi catering in giro per il mondo, com'è? Allora, è importantissima. Beh, voglio precisare che ho fatto anche buffet per 8.500 persone, seduti per quasi 5.000, quindi dobbiamo proprio organizzarci bene. E la cucina è importantissima. Calcola che dopo un primo contatto, il contatto successivo è proprio quello di andare a vedere sul posto, la location, per poter predisporre al meglio come lavorare. Quindi la cucina solitamente in questi casi una cucina centrale con poi delle cucine satellite molto vicine a ridosso della sala da pranzo, perché si possa servire così tutto caldo al momento e soprattutto veloce. Ecco, senti, ma ok tutto questo, però c'è un lavoro dietro incredibile. Le tecnologie come influiscono su queste realtà così importanti? Tantissimo, ci stanno aiutando davvero tanto se utilizzate nel modo giusto. Calcola che quando io ho iniziato a girovagare per le cucine di Vittorio, ero col ragazzino e mi facevo rincorrere dai cuochi, i quali rubavo magari pezzi di formaggio piuttosto che il prosciutto, c'erano ancora le cucine in ghisa, Gualtiero senz'altro se le ricorda, con il bruciatore centrale andava a cherosene, no? Tra l'altro pericolosissimo, inalavi sempre questi gas, queste cose abbastanza anche nocive, e ti dico che queste piastre che dopo alcuni mesi con la forza del calore si piegavano, no? Quindi tu avevi il pentolino, uno era dritto, uno storto, uno piegato sulla curva, e lavoravi, era difficilissimo. Oltretutto questi poveri cuochi cuocevano a ridosso di questo calore che cuoceva a loro tutta la pancia, tutti gli intestini. Quindi grazie alla tecnologia invece abbiamo fatto passi da gigante, le cucine ormai sono degli ambienti, dei salotti possiamo dire, ambienti dove lavori tranquillamente, proprio ci lavori molto bene, il calore è proprio solo vicino alla piastra, ricordiamoci della piastra del cromo, dell'induzione, dei forni a convezione, cioè veramente c'è stata tanta, un aiuto forte per noi, insomma, per noi cuochi. Bene, grazie a Chicco Cerea, linea alla regia per sentire cosa succede nelle strade italiane, e torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Eccoci di nuovo a parlare di tecnologie in cucina, di spazi in cucina. Mi scrive un cuoco: sono cuoco da 37 anni, per questione di spazio in casa mia ho solo il microonde con grill e riesco a fare tutto dalla colazione all'antica, primi, secondi e dolci. Hai visto, Gualtiero? C'è qualcuno che ha imparato a usare il microonde? Ma io credo che l'importante sia saper cucinare, e dopo le tecniche, naturalmente. Io ricordo che cucinavo con le cucine a carbone e le piastre di ghisa diventavano roventi. Poi c'era chi era più bravo, che naturalmente, per esempio, io ricordo così una cosa che cito ogni tanto, un cuoco bravissimo, erano chef di grandi alberghi, poi io sono cresciuto così con chef di grandi alberghi, cioè i grandi professionisti, e mio padre non sapeva cucinare, allora sapeva fare solo la costoletta milanese, infatti l'ho ereditata anch'io così, e perciò aveva un cuoco, mi ricordo, bravissimo. Poi usciva il pomeriggio, si faceva tutti i bar della zona, e poi quando entrava era così che si attaccava al tavolo. Però mi ricordo che su questa piastra che era rovente al centro gli chiedevano una paillade, è una cosa che ricordo come fosse adesso, scusate, e lui metteva sempre il punto giusto della paillade che cuoceva perfettamente. Questo vuol dire conoscere, io dico sempre, l'intensità del fuoco con lo spessore della padella. Questo è quello che un cuoco deve imparare. Se non ha imparato questo, non ha imparato niente, perché c'è un modo di portare avanti le cotture così, in modo che il calore penetri, non che bruci e dopo bisogna abbassare, no, deve penetrare lentamente. E deve, poi non dimentichiamo che noi siamo il paese troppo cotto tutto, no? La situazione è un po' migliorata, ma un tempo quando ero ragazzino tutto sempre cotto. Mi ha portato a fare la mia costoletta alla milanese a cubi, così nessuno mi chiama più per dire che non è cotta, perché deve essere rosa all'interno, altrimenti i succhi oltretutto spingono in superficie e bagnano la parte sopra. E così ridotta a cubi, naturalmente tutti la mangiano, non ho mai avuto più nessun reclamo, e vi garantisco che dentro è rosa, come dico io. Guarda, il reclamo l'hanno fatto le mie figlie a te, perché una volta le ho portate, erano ancora molto piccole, e si sono rifiutati perché hanno detto: ma questo qui cosa pensa, che noi non sappiamo tagliare la cotoletta? E quindi hanno detto: da Gualtiero non vogliamo più andare. Vabbè, a parte sono migliorate, spero. Sì, sono migliorate. 800 24 00 24. Ma volevo, tu hai parlato di diffusione del calore. A Milano c'è un personaggio che si chiama Arturo Maggi, che è il cuoco della latteria in via San Marco, che da anni porta avanti il discorso dell'argento. Lui sostiene che l'argento è il miglior conduttore di fuoco, è vero? È vero, sì. Quindi molto una volta le padelle, se mi ricordano così, l'avevo persino dimenticato, ho ragione. Quindi si può. Ma poi dico, l'importante è che il cuoco sappia cucinare. Perché tu dici che molti cuochi che si chiamano chef non sanno cucinare. No, non dico che non sappiano cucinare, bisogna vedere se possiamo stare. No, no, perché noi vogliamo stare, lasciamo stare. Tu hai scritto il decalogo sul cuoco. Ah, l'hai letto? Sì, certo che l'ho letto. Ti sei istruito? Mi sono istruito molto, mi sono istruito e ho capito che e non si può chiamare chef uno che cuoce solo in cucina. No, ho fatto una differenza senza fare il decalogo. Tre livelli, il cuoco, ovvero il cucitore, quello che deve saper cucinare, nient'altro, basta che sappia cucinare e poi tutto viene bene. Poi c'è il compositore, vabbè, che è qualcosa di più, ma non è ancora l'artista. Il compositore è quello che compone un piatto, poi anche un piatto di ravioli è fatto di pasta e di interno, perciò sono due cose che la composizione è quella. E poi dico c'è l'artista che è quello che sublima tutto. Ecco, sono delle cose che, non so, io faccio sempre l'esempio della cucina giapponese perché li adoro, perché sono, lasciamo stare i gusti che possono non piacere, come sempre ogni cosa, ma le tecniche, il rispetto per la materia. Io cito sempre una frase di Alban Berg che dice l'improvvisazione presuppone la conoscenza della materia, ricordatevi questa frase. Allora io dico, se conosci la materia non puoi distruggerla come succede sempre. Io vedo sempre dei macelli, dei pasticci, delle cose. Allora se conosciamo la materia, i giapponesi sono bravi per quello, perché si può dire che, non so, la tagliano e basta. mi è arrivato un sms che dice di approfondire il discorso microonde, perché io non lo uso ma spesso lo subiamo inconsapevolmente, è una cucina sana? Io non credo. Esther di Monza, e non lo so, magari se c'è qualcuno che sta ascoltando che produce microonde, magari se interviene così sappiamo esattamente se fa male o non fa male. Ma continuiamo sul discorso delle tecnologie, perché io ora ho in linea un personaggio particolare, perché ora quando vi dirò che fa il designer d'auto, qualcuno dirà ma cosa c'entra, ma cosa ci azzecca, come diceva un noto magistrato. E buongiorno Gioacchino Acampora. Buongiorno a tutti, ciao Davide. Buongiorno, Gioacchino Acampora della carrozzeria, una carrozzeria famosa a Milano che si chiama Castagna. Perché? Perché lui praticamente smonta auto importantissime, milionarie per grandi ricchi, e le rimonta a suo modo facendo dei prototipi unici. E però ultimamente ho scoperto che Gioacchino Acampora sta mettendo su un impianto per una cucina digitale. Addirittura appunto con il 3D, con la tecnica del 3D, produce pasta, produce altre cose. Devo dire che ho visto e sono rimasto meravigliato. Gioacchino, pensi che si possa arrivare alla cucina digitale? Io credo di sì. La cosa è cominciata un po' per gioco con lo zucchero e il cioccolato qualche anno fa, convertendo delle stampanti digitali, delle stampanti 3D che noi comunemente usiamo per stampare i pezzi delle nostre vetture, a stampanti alimentari. Io avevo cercato di comprarne due che erano apparse sul mercato, una in America e una in Spagna, ma purtroppo sono state più volte annunciate e poi non sono disponibili di fatto. E allora con i miei ragazzi, alcuni ingegneri elettronici eccetera, ci siamo messi a costruirne una. Per cui l'abbiamo resa più veloce e l'abbiamo accessoriata con degli estrusori, con le cose che ci siamo inventati e brevettati, no? E ora siamo in grado nello specifico di entrare molecola per molecola con un alto grado di precisione sulla cottura di ogni piccolo granello che viene depositato. Io sono d'accordo col maestro Marchesi e non voglio sembrare uno scienziato, perché noi quando facciamo le automobili le facciamo con la passione, sono convinto che la passione muova tutto. In questo caso abbiamo cercato di creare uno strumento tra virgolette scientifico, perché comunque la cucina è un processo, è una metodologia e non è quella cosa che serve per fare spettacolo come ultimamente accade, ma è una cosa in cui ci sono grandissimi professionisti e grandissime persone che conoscono nell'intimo l'alimento. Tu mi dicevi che in futuro diciamo un cuoco a Tokyo che ti spedisce dei liofilizzati e tu con questa macchina 3D lui il comanda attraverso il computer da Tokyo e ti mette dentro un programma e tu con quella macchina puoi praticamente produrre questo tipo di diciamo di pasta o di altro che è stato così congegnato, è così? Assolutamente, diciamo che adesso è di gran moda ricevere gli chef in casa, creare delle situazioni dove lo chef, oltre che spiegare i piatti, cucina per poche persone al di fuori del ristorante. Quello che ho immaginato io è che una delle potenzialità che ha questo mezzo è, e che va a valorizzare la figura dello chef, oltre che del singolo alimento, perché la cucina è tradizione, ma la cucina è anche sacrificio e scelta degli ingredienti, e gli ingredienti poi vanno rispettati in cucina. Allora, quando noi depositiamo un filamento, un granello da 0,3 mm fino a 1,5 mm e decidiamo che quel granello viene depositato a 82 gradi, il granello a fianco viene depositato essendo di un'altra consistenza o di un altro genere, viene posizionato alla giusta ideale temperatura, noi rispettiamo il cibo. In tutto ciò quindi io mi immagino delle cartucce che vengono spedite e quindi insieme a dei file, questo può in pratica uno accede al portale del ristorante, paga la cena, tutto gli viene spedito a casa, gli viene spedito a casa un file, perché poi tutta la parte software ha una grandissima importanza. E la parte software è generata da una nuova figura professionale che appare in cucina, che è quella del designer del cibo, che sta a fianco allo chef e al subchef. Però bene. Questa poi è ecco. Questa è un'altra parte, caro Campora, credo che hai stuzzicato anche l'appetito del mio amico Marchese, che sta prendendo appunti, ma ora devo passare la linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni alle 9 su Radio 24 con le provocazioni dei faccia a faccia, le inchieste, le sfide della gente e ancora le novità in rosa di Sara Tardelli, i graffi di Mario Secchi, i salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia di Marina Milone. Ogni giorno andiamo a caccia di verità con il fact checking, le parole alla prova dei fatti. Mix 24 di Giovanni Minoli, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 su Radio 24. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Eccoci di nuovo, chi è una radioascoltatrice, Orsolina da Pisa. Buongiorno Orsolina. Ecco, buongiorno, sì. Il mio intervento è brevissimo, riguarda gli alimenti cotti al microonde, no? Non è che facciano male, ma le onde del microonde rendono le molecole all'interno dell'alimento, le ordina a palizzata, per cui se noi mettiamo una patata, non è che diventa cancerogena, però cambia il sapore, perché in natura l'ordine in natura è il caos, le molecole devono essere in maniera disordinata, muoversi, andare, quindi così a palizzata cambia il sapore, tutto qui. Bene, la ringrazio Orsolina, grazie, ma ora dopo torneremo all'amico Marchesi, perché ho visto che ha fatto una faccia prima quando si parlava di digitale, di cucina digitale, poi mi è arrivato un sms chiamate i carabinieri, ma poi ce ne sono tanti altri, quindi poi ne parleremo, ma ora con noi un famoso architetto che è Piero Lissoni. Buongiorno Lissoni. Buongiorno. E io con lei volevo un po' affrontare l'argomento degli spazi, perché diciamo che con gli affitti, i costi delle case negli ultimi anni, vorrei sapere se la cucina si è ristretta o si è allargata, questo è importante. Poi so che lei ultimamente sta progettando cucine dei ristoranti, ecco, magari poi faremo cenno anche a quello, ma prima voglio sapere un po' lo sviluppo storico, cioè delle cucine, cioè si stanno allargando o si stanno fondendo con i salotti, quindi diventano tutta una cosa per risparmiare, oppure non è così? Io credo che proprio così non è. Comunque buongiorno di nuovo. Le cucine sono tornate, soprattutto negli ultimi 20 anni, sono tornate a essere il vero cuore della casa, per tantissimo tempo, diciamo dagli anni 60 agli anni 80 più o meno, le cucine erano un puro spazio di servizio. Dagli anni 80 in avanti, sto tagliando un pochino generosamente, sono tornate a essere degli spazi di vita, quindi il cibo è tornato a essere un elemento centrale della nostra vita, non è più stato considerato un elemento punitivo, mangio, scappo e vado da un'altra parte. Paradossalmente, nonostante gli affitti, nonostante la dimensione delle case, le cucine sono diventate più grandi, sono diventate degli spazi più utilizzabili, non sono più stati trattati come dei purissimi spazi tecnici. Ecco, e invece lei sta appunto progettando alcuni ristoranti. La tecnologia in questo momento, anche nella ristorazione, quindi anche nella progettazione, è un aspetto molto importante. È un aspetto fondamentale. Lei pensi a che cosa è cambiato dagli abbattitori di calore, tutti gli abbattitori di temperatura, tutte le cotture di nuova generazione che non contemplano quasi più il gas, ma soprattutto la cosa straordinaria nei ristoranti che i cuochi in realtà sono i veri designer. Noi ci limitiamo in realtà a mettere un pochino di ordine, ma è il cuoco che disegna la cucina, è il cuoco che muove il proprio diciamo universo. Ogni volta che un cuoco disegna se stesso, disegna il suo cibo e soprattutto disegna il modo di preparare il cibo, quindi anche tutta la tecnologia che è entrata nelle cucine è in realtà nata intorno a un progetto di trasformazione del cibo. Niente nasce tecnologicamente poi viene adattato, ma succede il contrario. Ma di solito i cuochi sono pasticcioni, ma ne ho uno in linea, guardi, che addirittura si è disegnato la cucina in un motorhome e va in giro quindi a fare praticamente street food con la cucina. Tra l'altro è Mauro Liassi, buongiorno. Ciao Davide, come stai? Buongiorno. Buongiorno. Due stelle anche lui, ma lui va sui camion, va sul camion e gira l'Italia. Ma com'è questa cucina che tu ti sei creato dentro il motorhome? Sì, è una cucina ambulante, abbiamo fatto questo track, l'ha disegnata Mirko Gabellini, che ha disegnato anche quasi tutti i paddock che ci sono in Formula 1, quei camion che si aprono, no? Che poi vengono adibiti per sala stampa oppure per ristorante. È un rimorchio di 5 metri e mezzo, largo 2 metri e mezzo, e dentro ci abbiamo costruito uno spazio che è tutto quanto adattabile, che si può dove le macchine si possono sostituire a seconda dell'evento che si va a fare. E comunque diceva molto bene il signore di prima, che è il cuoco che disegna la cucina, perché meglio di lui nessuno sa come poi le macchine devono essere utilizzate e dovranno essere sistemate. La cucina è una sorta di abito sartoriale che va fatto su misura, e ogni cuoco ha la sua taglia, per cui è lui che decide come deve essere, quali sono gli spazi secondo una sua logica e secondo una sua esperienza. Ecco, ma cucinare dentro un motorhome vuol dire anche imparare a cucinare in ambienti molto stretti? Sì, sì, beh certo, ma si adatta lo spazio con il prodotto. Il prodotto solitamente si confeziona prima, quindi si studia un prodotto che è facilmente distribuibile, quindi ci sono degli studi a monte. Non so, faccio un esempio: noi facciamo un panino di porchetta con la porchetta, che quando uno lo mangia è straordinario, fragrante, caldo, sa di fumo, c'è la porchetta calda dentro, ma in realtà può essere preconfezionato con qualche mese di anticipo, perché a secondo con delle tecniche del freddo particolari, questo panino viene portato fino a 40 gradi sotto zero già finito e poi riportato a una temperatura intorno ai 12-13 gradi e sparato in forno a circa 180 gradi per 7 minuti, e uno ha un pane che è perfetto, perché è chiaro che quando tu sei in un evento dove ci sono centinaia di persone il tutto è giocato sulla velocità della distribuzione, no? Cioè non ti puoi mettere lì a tagliare il pane, tagliare la porchetta e preparare il panino, perché chiaramente poi tutto questo avrebbe bisogno di più tempo. In questo modo invece c'è una grande velocità e la fragranza e il risultato è sempre eccellente. Bene, grazie a Mauro Liassi. Torniamo a Piero Lissoni, perché volevo chiedergli questo. Ha detto appunto che è il cuoco che disegna la cucina, ma io guardando i ristoranti italiani, una media devo dire, non ce n'è uno che sia bello, cioè gradevole, ma non è che anche sulla progettazione esterna e anche degli interni i cuochi mettano il naso? Speriamo che rimangano solo a mettere il naso nella cucina. dalla sua esperienza. Lei sta toccando un tasto dolente. Io ho un po' di amici cuochi e vorrei evitare di essere avvelenato la prossima volta che vado a mangiare da loro, quindi preferirei rimanere fuori dalla discussione, se mi concede il lusso e la possibilità di non correre rischi. Sì, però in ogni caso ha ragione, i ristoranti italiani, la maggior parte dei ristoranti italiani, diciamo che sono progettati in maniera molto casuale. Ognuno di noi poi alla fine, io progettista, loro cuochi altrettanto progettisti, ognuno di noi mette sul piatto della bilancia una specie di sapere. È vero che in Italia siamo rimasti un pochino indietro rispetto ad alcuni paesi che si sono aperti prima anche all'idea che il cibo fosse estetica e non solamente gusto e non solamente purezza dei materiali, ma mi ricordo Gualtiero Marchesi per anni parlò di questa grande capacità di interpretare il cibo come gusto per gli occhi e gusto per il palato, gusto per l'olfatto, insomma i cinque sensi venivano messi allerta tutti contemporaneamente. Secondo me è tempo adesso che in Italia i ristoranti cambino un pochino. Eh sì, perché se andiamo a vedere i volumi, i libri che sono usciti sui ristoranti in giro per il mondo, veramente questo made in Italy, appunto, della ristorazione come aspetto esterno è veramente molto molto carente. La ringrazio, grazie del suo intervento, grazie. Ma io vorrei sentire Mabi da Roma, una radioascoltatrice. Buongiorno Mabi. Buongiorno, allora volevo dire che il microonde esalta il sapore. E non lo copre, mentre la cucina tradizionale va a coprire il sapore quando fa schifo. Il microonde ti dà il sapore delle cose buone, se sono cattive ti dà il sapore cattivo. Bene, grazie Mavi, un intervento veramente deciso, bello, ma su questo argomento del microonde ne ho tanti, veramente credo che questo microonde abbia. Buongiorno, non è vero quanto detto sul microonde, forse un laureato in fisica aiuterebbe, scusate. Ecco, allora guardi, fra poco avremo un laureato in fisica e le risponderei. Comunque ce ne sono tanti altri, ma ho visto che il mio amico qua Marchesi, non a proposito del microonde, ma a proposito di tante cose, della cucina. Ho scritto una pagina di appunti. Allora, comincia a raccontare, racconta un po'. Partiamo dalla bellezza dei ristoranti. Ecco, parto da una frase di mia figlia, la seconda figlia, che è un artista, musicista, di tutto. Il bello puro è il vero buono. Pensateci, il bello puro è il vero buono. Io vado sempre di più verso la semplicità, anche alla mia età, perché penso, anche se non cucino, penso, poi faccio il modello e i cuochi lo devono fare così, tanto che al Marchesino alla Scala c'è l'iPad da 5 anni e io fotografo il piatto, il cuoco lo deve fare così perché il cliente lo vede sull'iPad così. Poi la qualità va da sé, che quando il piatto è fatto in quel modo, facilmente, poi che sapete tutte le volte che si fa, non si ripete, si rifà, come diceva Paganini. Paganini diceva non si ripete, il Paganini non ripete, certo rifà, non ripete, non si può ripetere tutte le volte che un piatto viene. Ho fatto un mucchio di appunti qua, appunti, riuscirò a dirli tutti, mi dai un po' di tempo? Dai, no? Prova. Allora, intanto, il primo che ho segnato, parlando di carrozzeria, mi ha fatto venire in mente che l'altro giorno, scherzando, definivo che i miei piatti, perché sto preparando un libro che è da 2 anni che lì, ma non riesco a finirlo, di 120-140 ricette che sono tutte idee. Allora, io ho definito i miei piatti, sono la parte esterna, diciamo, il contenitore è la carrozzeria dell'automobile. Pensateci bene, il contenitore è importantissimo perché può esaltare il contenuto. Vabbè. Poi ho scritto una cosa importantissima, è la passione, non solo la passione, è l'amore. Non so se qualcuno di voi ha visto questo film Ramen Girl, che hanno dato un po' di tempo fa, dove una ragazza innamorata, che lavora, un'americana, lavora in un ristorante giapponese che fa il ramen, questa zuppa, che il brodo è importantissimo. A un certo punto è un giapponese che non ha il figlio, ha lasciato il lavoro, e allora lui rimane da solo, c'è questa americana. Questa americana ha il fidanzato, si vede che poi il fidanzato se ne va e le va avanti, e poi un giorno fa assaggiare il brodo al suo capo e lui lo sputa, butta via tutto, torna l'amore e lei trasmette l'amore a quello che fa, e l'uomo l'assaggia, il giapponese assaggia e l'abbraccia e le lascia al ristorante. Ma questo per dire cosa può fare l'amore. Infatti la cucina delle mamme e delle nonne d'una volta era la cucina dell'amore. E io qualche volta quando vado in qualche ristorante capisco, magari non è tecnicamente, però i piatti sono buoni, e buono è una cosa sola. Poi aspettate, perché io ecco, la cucina è di per sé scienza, non ricordo chi ha detto questa frase, sta al cuoco farla divenire arte. Poi smettiamolo di dire chef, per favore, non vuol dire niente chef, la parola è cuoco, altrimenti dovremmo dire chef di cucina, come c'è lo chef d'orchestra, chef di bureau, sono tutti chef, eh? Cuoco, no, usiamo un po' una parola italiana, che cuoco sembra a diventare banale. A me piace più cuciniere. Cuciniere, sì, ma cuciniere va bene. Cuoco, chef, poi scritto, aspetta. No, ora devo passare la linea alla regia. Occhiali, scusate. La linea alla regia, torneremo fra leggere. Poco, rimanete con noi. Strade in diretta. Ancora un ben trovati a voi tutti all'ascolto, subito al sud, perché sulla A30 Caserta-Salerno, per un incidente che ha visto coinvolto un camion che si è ribaltato ostruendo la carreggiata in direzione Caserta, è chiuso il tratto tra il bivio per il raccordo Salerno-Avellino e Mercato San Severino. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato, si consiglia per chi è diretto in A16 di prendere il raccordo Salerno-Avellino, mentre per chi è diretto sulla 1 si consiglia di uscire a Lancusi e rientrare in autostrada a Mercato San Severino. Ci spostiamo nel Lazio, dove per il traffico intenso si verificano code sul grande raccordo anulare tra la diramazione per Roma Sud e Fiumicino in carreggiata interna, e sulla A12 Roma Civitavecchia, per lo stesso motivo, code di 1 chilometro tra Torri in Pietra e Cerveteri in direzione della statale 1 Aurelia. Andiamo al nord per un incidente sulla A4 Torino-Milano, si rallenta per oltre 1 chilometro tra Rho Nord e Arluno in direzione Torino, mentre sulla A22 del Brennero si verificano code di 2 chilometri per un veicolo in avaria tra Bolzano Nord è chiusa Val Gardena in direzione del confine di Stato con l'Austria. Ed è tutto, buon viaggio. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Eccoci di nuovo, sentiamo Roberto da Pistoia, un radioascoltatore. Buongiorno Roberto. Buongiorno a lei, complimenti per la trasmissione. Ho sentito parlare di sale e delle sale ristorante che dovrebbe eccitare tutti i 5 sensi che abbiamo, o i 6 che hanno le donne. E l'unico senso che secondo me torturiamo e torturano spesso i ristoratori è quello dell'udito, perché in certi ristoranti, io ne giro 150-200 all'anno per lavoro, non solo, e c'è un'acustica che è intollerabile. Trovo che l'acustica non sia mai progettata adeguatamente nelle sale dei ristoranti, per cui a fronte di una bellissima cena poi si esce che è assordati, non si riesce a comunicare, insomma c'è questo comfort acustico che non è per niente curato. Beh, io ne aggiungerei le luci. Le luci nei ristoranti sono un disastro, sono sempre mal centrate, o sono forti o non si vede, o addirittura sono buie, quindi oltre all'acustica aggiungerei anche questo. Ma grazie Roberto, ma devo dire che oggi fra carabinieri, qua un altro mi scrive, fermate quella pazza di Roma, fate la prova con la lingua sul microonde, insomma il microonde, e però prima poi ti ridò la parola caro Galtiero. Ma ora abbiamo con noi un fisico dell'Università di Parma, noto per essere stato uno dei creatori della cucina molecolare, anzi della gastronomia molecolare in Italia, è un grande esperto di cucina. Buongiorno Davide Cassi. Ciao Davide e saluti al maestro Marchesi. Sarebbe ora. Davide, ci dobbiamo vedere. Ciao. Davide, scusami, ciao. Io ti volevo da te avere alcune indicazioni su questi nuovi strumenti che sono entrati un po' in queste cucine nuovissime di impostazione molto, molto tecnologica. Però prima mi devi rispondere sul microonde, perché qua c'ho 10 sms che tutti chiedono microonde sì o microonde no. Cosa volete sapere del microonde? Ma c'è una signora che dice che fa male, un'altra dice che esalta i sapori. Insomma, si può usare il microonde in cucina? Allora, la mia idea è questa, si può usare, la sua utilità è estremamente limitata, tutto lì. È uno strumento per scaldare, quindi non spaventatevi delle onde, non fanno assolutamente niente. Il sistema del riscaldamento è simile a quello della luce del sole, solo che le microonde penetrano un po' più all'interno degli alimenti. Per questa proprietà non riescono a creare la crosticina croccante, questo è un grosso limite. E poi i forni a microonde attuali sono ancora molto rudimentali, per cui hanno una cottura estremamente disuniforme che non li rende dei grandi strumenti di cucina, tutto qua. Senti Davide, visto che hai preso il via, volevo chiederti quali sono questi nuovi strumenti, pacco jet e poi cosa c'è? Ce ne sono tanti altri. Ce ne dici, ce ne parli di qualcuno? Ma sono veramente utili. PacoJet lo trascurerei perché da quando è arrivato l'azoto liquido è fondamentalmente inutile, le stesse cose si fanno con un mixer qualunque più l'azoto liquido. Ecco, gli vedo altri... che il tuo gelato all'azoto liquido sta imperversando perché ho letto di altre gelaterie con l'azoto liquido, ma l'azoto liquido si può usare a casa o è meglio non usarlo? Ma sì, ma noi lo usiamo sempre a casa, è molto meno pericoloso dell'olio dell'acqua bollente, bisogna conoscerlo chiaramente. Mi auguro che fra un po' tutti saranno in grado di usarlo e poi sceglieranno che cosa farci. Ecco, quello è uno strumento in cui credo molto nel futuro, è uno strumento, non un ingrediente, lo ribadisco, serve a raffreddare molto rapidamente. Quanto ad altri utensili più o meno strani, ma dobbiamo citare senz'altro i distillatori a bassa pressione, a bassa temperatura, perché tu riesci a distillare senza cuocere, quindi a preservare gli aromi naturali degli alimenti senza dare questo gusto di cotto, esattamente come la pentola di pressione che serve a ridurre senza cuocere, quindi possiamo ridurre un succo di frutta senza fargli prendere sapore di cotto. Rimani con noi perché voglio dare un paio di minuti finali a Gualtiero che si è preso centinaia di appunti. Minuti. Ora gli occhiali a te, Gualtiero. No, ma qui ho tante cose da dire. Comincia. Torno un'altra volta. Sì, certo. No, mi sembra che facciamo di tutta l'erba un fascio. Credo che ognuno abbia il diritto di esprimere quello che sa. Adesso perché i ristoranti devono essere fatti tutti, certo, se andiamo a cercare, se andiamo in una trattoria non possiamo pretendere questo, nello stadio né quell'altro, insomma cerchiamo di mangiare bene e di essere serviti bene. Credo che l'accoglienza sia una delle cose più importanti, il ricevimento, come trattano le persone, questa è una cosa importantissima, fa dimenticare anche come si mangia delle volte. Ma volevo dire tante cose, ma tu mi hai messo un limite, vabbè. Nella musica, allora? La musica secondo me non deve essere una musica a tema, devono essere dei suoni, anche perché permettono diciamo di staccare un tavolo dall'altro, perché quando si parlano le persone se c'è un suono serve anche a questo, e poi serve a non creare un'atmosfera così piatta, no? Io sto facendo fare da un amico compositore un testo perché ero stufo di sentire sempre le stesse cose, e poi se voglio sentire musica vado a concerto, c'ho la scala lì vicino, perciò vado alla scala, non ho voglia di sentirmi dei concerti per radio. E poi aspetti, ho segnato tante cose, mi dai ancora un attimo? Certo. Vabbè, adesso non mi ricordo più. Cucina vista e non cucina vista, secondo me io ho superato questa cosa della cucina vista, non se ne può più, adesso perché devo vedere i cuochi che lavorano? No, ma come tu sei stato il primo? No, il primo è stato Giannino, che era il più bel ristorante, il vero Giannino, con una cucina strepitosa, con le cappe in rame, veramente una cosa straordinaria. No, e diciamo che sono stato uno di quelli, adesso ho dimenticato, infatti un giorno ho questa mia figlia che scrive, però papà, vedi, d'altronde è giusto, non è giusto vedere la cucina che lavora, è così bello vedere la sorpresa. E poi io sono quello della gestualità della sala, che per me dopo un anno e mezzo che avevo aperto in Bovesin della Riva nel 77 avevo già smantellato la nouvelle cuisine, che è tutto sul piatto, il cuoco non sa più cosa inventare. Così bello vedere una fagianella cotta bene che esce in salvo in una casseruola, messa sul tagliere, e il maître trancia bene. È la gestualità, è il recupero di una parte che si era dimenticata. Io uso di tutto. Adesso l'altro giorno ho presentato in una cosa il torchio per i Chateaubriand, che nessuno ha mai visto nemmeno. Ma io ho una serie di queste cose che ho sempre usato. Chateaubriand, se posso spiegarlo velocemente, è il cuore di un filetto che si fa per due persone. Viene cotto come il cliente richiede, più o meno cotto, viene portato in sale in una casseruola, il maître taglia le due fette laterali che sono le più cotte, ma dentro sono al sangue, si tritano, si mettono in questo piccolo torchio, che è una cosa fai alto così, e poi c'è una parte che entra, spremi, e il sangue che esce serve da condimento, non c'è altro. Ecco, hai fatto venire fame a tutti. Una carne stupenda, una carne buona, perché ci devo mettere una salsa, perché devo complicare la vita, ci metto il suo sangue. Bene, hai fatto venire fame a tutti. Certo che la carne deve essere buona, naturalmente. Io auguro a tutti buon pranzo, un saluto, grazie alla regia, grazie a Lorenzo che mi ha assistito. Grazie a voi. E grazie a Gualtiero, e appuntamento alla prossima settimana.